Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza, impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e nella scorsa puntata vi avevo parlato della legge di attrazione. Sempre legato alla legge di attrazione c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarvi oggi, la gratitudine. Pensate che sia la solita cosa del bicchiere mezzo pieno? In parte sì, però bisogna crederci, nel senso che è inutile essere disonesti con noi stessi, ve l'avevo anche detto nella puntata della legge di attrazione. Essere onesti con noi stessi è sempre la prima cosa che attrae la legge di attrazione e quindi la gratitudine. Quindi se voi siete arrabbiati per una cosa che vi è successa, una brutta cosa, è inutile che diciate di essere grati, perché se non vi era successa forse voi non avreste potuto capire che no, si tratta di essere grati per tutte le cose che ci sono nel mondo. Il libro che sto leggendo ora è un libro di esercizi, diviso in esercizi da fare tutti i giorni per 28 giorni. Sono circa a metà perché ne ho fatti 15 e devo dire che di risultati ne ho visti e anche inaspettati, quindi non è che mi aspettassi delle cose e queste sono avvenute delle cose che io non mi aspettavo proprio, e questa cosa della gratitudine mi fa molto piacere, per cui oggi vorrei condividerla con voi. Saole diceva che la gratitudine è la memoria del cuore, e mostrarsi grati è più una forma di educazione per noi occidentali, è un modo per superare le barriere e raggiungere una dimensione più emotiva, personale e spirituale. Perché non ringraziare la vita per il fatto di averla? Perché non riconoscere gli altri, i loro pregi, le caratteristiche che amiamo? E ancora, perché non ringraziare noi stessi per la nostra integrità, il nostro coraggio e la nostra forza? Lo sappiamo tutti, a volte non è proprio facile addentrarsi nelle conoscenze del cuore, quelle di cui si riferisce Lao Tse con l'aforisma che vi ho detto prima. Ogni giorno il nostro cervello ci guida verso la strada più obiettiva e razionale, lì dove risiedono alcuni rancori, alcune frustrazioni. Io sono la prima che, nonostante ci stia lavorando sulla gratitudine e, come dicevo, sto leggendo questo libro, servo ancora rancore per una persona che con me la settimana scorsa si è comportata molto male, e se ci penso mi arrabbia ancora, e quando la vedo la prima cosa che mi fa è rabbia. Però sono umana e su questa cosa ci devo lavorare. Il semplice fatto di mostrare gratitudine implica una rivelazione personale. Essere grati significa riconoscere, agire con umiltà e senza artifici, imparare a valorizzare quello che è davvero importante nella vita. Quindi oggi parleremo soprattutto di questo, del valore e del potere della gratitudine. I quattro pilastri della gratitudine sono l'apertura emotiva. Perché tante persone fanno fatica a dire grazie? Quando facciamo qualsiasi cosa per qualcuno a cui teniamo, non ci aspettiamo obbligatoriamente quel grazie, segno di cortesia e di buona educazione. Quello che cerchiamo davvero è la riconoscenza, che ci si capisca che ci siamo preoccupati e abbiamo dedicato non solo il nostro tempo agli altri, ma anche parte della nostra emozioni. Le persone che non mostrano gratitudine di solito presentano le seguenti caratteristiche. Negoziazione emotiva. Evitano di aprirsi agli altri e spesso agiscono con diffidenza o in maniera autosufficiente. In realtà mancano di una solida autostima e dentro sono piuttosto fragili. Agiscono con egoismo, si dimostrano ingrati e a volte anche superbi. Non mostrare riconoscenza verso gli altri significa non riconoscere se stessi. Di conseguenza sono persone che mancano di abilità emotiva. Per praticare la gratitudine dobbiamo essere in grado di aprirci al punto di vista emotivo. Solo in questo modo potremo riconoscere noi stessi e il mondo attraverso il cuore attivo, forte e sincero. La gratitudine e la riconoscenza sono i regali migliori dell'essere umano. Pochi valori sono così potenti come riconoscere i nostri simili mediante la gratitudine. È un modo universale di riconoscere e unire e di creare legami. Io ti sono grato per quello che sei, per le tue virtù, per il tuo modo di essere. Ti ringrazio per far parte della mia vita, arricchendola con la tua presenza. E questo era il secondo pilastro. Il terzo, mostrarsi grati non significa essere in debito. C'è chi pensa che il semplice fatto di ricevere qualcosa o di dover ringraziare significa subito di essere in debito con quella persona che ha detto o fatto qualcosa. Se dentro di voi risiede questa sensazione, quella di sentirsi in obbligo verso qualcuno che vi ha fatto un favore, di certo non state mettendo in pratica una gratitudine libera e sincera e spontanea. La gratitudine è un atteggiamento che non esige obblighi, è un modo di essere che va oltre le nostre azioni. Se fate qualcosa per il vostro fratello o una vostra amica, non segnatelo nell'agenda la speranza che vi restituiscano il favore prima o dopo. Lo fate perché volete o perché riconoscete che quella persona come parte di voi. Lo avete fatto e lo fate liberamente, senza aspettarvi nulla in cambio. A questo punto non si tratta di farsi restituire il favore, quanto che gli altri mostrino riconoscenza, stabiliamo un legame con l'altro, in modo da formare unità. Proprio come suggerisce la parola Namaste, famosissima, io ti saluto, io ti ringrazio, ti riconosco come divinità che a sua volta fa parte di me. Ultimo pilastro, l'importanza della gratitudine personale. Passiamo la vita a ringraziare gli altri per la dedizione alla famiglia, per l'altruismo dei nostri amici, per l'affetto del partner e per le persone che entrano nella nostra vita e escono dalla nostra vita arricchendo con piccoli gesti. Ma vi siete mai concessi l'occasione di ringraziare voi stessi? Pensate che sia un atteggiamento egoista fuori luogo? Assolutamente no. Non importa che siate religiosi, scettici, spirituali, l'autogratitudine non infrange nessuna regola, anzi è un pilastro fondamentale con cui rafforzare la propria autostima. Amiamoci e siamoci grati ogni giorno. Che ne dite se a partire da questo momento iniziaste a comportarvi in modo più umile e a valorizzare le cose semplici della vita? Ringraziate anche per la brezza fresca che vi dà sollievo d'estate, per la buona decisione che avete preso da poco. Siate grati per la vostra famiglia, per l'animale che avete a casa e che vi dona tanto affetto. Io sono grata ai miei cani tutti i giorni e glielo dico, la prima cosa che faccio la mattina è essere grata al mio cane e a ringraziarlo di esistere, e anche all'altro mio cane che è in caniglia. Siate grati per il semplice fatto di esistere, per il fatto di stare bene, di capire che non siate più quelle stelle fugaci che vanno e vengono, ma che cercano di vivere la vita al massimo. Perché no? E con questo vi lascio. Ma prima di lasciarvi vorrei veramente ringraziare due persone speciali che la scorsa settimana mi hanno mandato un'email e che mi ha veramente quasi commosso, e poi i nostri contatti, il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono, Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669, io Elisa 339-3860-123 e la nostra pagina Facebook Energicamente. Con questo vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon fine settimana e ringrazio Davide e Giorgio.